Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1863. Nasce la Croce Rossa. Qui si svolge una lotta corpo a corpo, orribile, spaventosa. È una lotta senza quartiere, un macello, un combattimento di belve, furiose ed ebbre di sangue. Sono alcune delle parole scelte da Henri Dunant per raccontare una delle più drammatiche battaglie italiane, nel suo libro Ricordo di Solferino, che ha fatto il giro di mezza Europa. Di come questo infaticabile cittadino elvetico abbia organizzato i soccorsi in quella tragica e insieme gloriosa giornata, il Gazzettino del Risorgimento vi ha già dato notizia nel 1859. Quello che vi raccontiamo a 4 anni di distanza è che Dunant ha deciso di fare di quell'esperienza una ragione di vita e sembra che ci stia riuscendo. All'inizio di quest'anno ha radunato altre 4 persone provenienti dalle famiglie più influenti della sua città, Ginevra, formando il Comitato Ginevrino di Soccorso dei Militari Feriti. Non gli è bastato. Ha voluto una conferenza in grande stile, ha viaggiato per il vecchio continente e il 26 di ottobre è riuscito ad organizzarla. Il 29 ottobre 18 rappresentanti di 14 paesi hanno firmato una prima carta fondamentale con 10 principi di base, tra cui quello di soccorrere chiunque venga ferito in battaglia, di qualunque parte sia. Neutralità, quindi. La scelta del simbolo di questa struttura dalle grandi ambizioni è arrivata da uno dei delegati, che ha proposto di invertire i colori della bandiera svizzera per onorare il paese ospitante. Una croce rossa in campo bianco, dunque, che Dunant spera che sventoli su tutti i campi di battaglia del pianeta. Simone Spezia, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.